soprattutto in generale smontare il mito della cucina italiana, la cui qualità io non metto mai in discussione, perché non sono neanche un gastronomo, non è la mia competenza, però a me piace la cucina italiana, e però di solito si racconta della cucina italiana e dei prodotti tipici italiani una storia millenaria che molto spesso invece è molto più corta di quella che viene narrata. Possiamo fare qualche esempio? Guardi, le dico che il titolo originale del libro era "Il vero parmigiano lo fanno nel Wisconsin", dopo è diventato il titolo di un capitolo. Questo è un po' il caso più clamoroso, no, clamoroso forse non è il termine giusto, però insomma quello che ha fatto un po' più scalpore, perché il parmigiano reggiano, che è un prodotto straordinario come il grana padano del resto, in realtà negli ultimi 50 anni è cambiato tantissimo, proprio sia nella forma che nel sapore che nella consistenza, da tutti i punti di vista è cambiato, mentre invece se dovessimo andare a cercare un prodotto più simile a quello che mangiavano i nostri nonni, dovremmo andare nel Wisconsin, a Milwaukee, perché lì il famigerato parmesan è un prodotto che ha 100 anni di storia e che è rimasto più legato a come lo si faceva appunto 100 anni fa. In realtà è cambiato anche il parmesan, non è che sto qui a raccontare che là non cambia niente, cambia come da tutte le parti del mondo, però almeno nell'aspetto, in alcune caratteristiche del prodotto è più simile a quello di 100 anni fa. Qui è cambiato ed è diventato quello che conosciamo, ma insomma è un po' come un'altra cosa che sto guardando in queste settimane, è la storia dei cimbri, questa minoranza tedesca che vive tra il Trentino e il Veneto, che parlano un tedesco di 4 secoli fa, una specie di tedesco, e che quindi il vero tedesco è quello lì. No, ovviamente il vero tedesco è quello che si parla a Francoforte, non è quello che si parla in Veneto, però se volessimo andare a cercare radici forse le troveremmo più facilmente lì che non invece appunto a Francoforte o Monaco. Quindi insomma le battaglie che si fanno per il Made in Italy contro l'Italian sounding eccetera si basano su presupposti sbagliati in alcuni casi? In alcuni casi sì, cioè il caso del parmesan che viene sempre citato è assolutamente un caso sbagliato, perché il parmesan l'hanno fatto gli italiani in America e l'hanno fatto imitando il prodotto che facevano a casa, altri invece sono casi clamorosi di imitazione e quelli ovviamente vanno perseguiti per legge, insomma. A parte il fatto che poi gli strumenti per perseguire l'Italian sounding sono abbastanza spuntati, però al di là di quello è esattamente così. Dopo un'altra cosa che dico spesso è che guardate che l'Italian sounding è la certificazione del successo della nostra cucina e dei nostri prodotti, perché se non fossero così reputati nessuno si sognerebbe di imitarli, in qualche modo è la certificazione del nostro successo. Ma secondo lei perché c'è questa sorta di nazionalismo culinario, una questione di marketing? C'è del marketing, ma secondo me c'è qualcosa di più profondo, anche questo è un altro di quelle cose sulle quali io sto riflettendo in questi ultimi tempi. Questa cosa è emersa quando c'è stata la mia famigerata intervista al Financial Times, dove raccontavo un po' le cose che ci sono nel libro e che dico nel podcast. Un giornalista del Guardian ha detto che probabilmente quello che sta succedendo in Italia è una grave perdita di identità e il cibo è rimasta l'unica bandiera, l'unico elemento identitario in mano agli italiani. L'inglese diceva: avete solo il calcio e il cibo, il calcio sta andando male quindi vi è rimasto solo il cibo. Detta da un inglese che ha perso l'europeo in casa è comunque diciamo un po' pelosa, però in ogni caso secondo me c'è qualcosa di più profondo, non è solo marketing ma è una questione identitaria importante. Ecco, in un passaggio del suo libro parla anche di come appunto lo sviluppo anche delle città che si basa sul cibo sia, come dire, un po' asfittico. Noi viviamo in alcune città, io penso anche a Bologna, una moltiplicazione anche di attività ristorative, ovviamente anche in funzione del turismo. È problematico questo? Secondo me è problematico perché in realtà poi il settore della ristorazione è un settore anche difficile, dove ci sono problemi strutturali, sottoccupazione, diciamo salari bassi, sfruttamento molto elevato, quindi comunque è un modello di sviluppo che forse non è del tutto auspicabile. Ma secondo me il vero problema, ed è un po' la mia crociata da quando è uscito il libro, che ormai ha 6 anni, è che secondo me se noi pensiamo, se un paese come l'Italia pensa di poter vivere di cibo e di turismo, si fa del male, perché in realtà non è così, perché l'Italia è un grande paese industriale e dovrebbe salvaguardare prima di tutto il suo apparato industriale. Poi dopo il turismo va benissimo, la ristorazione, i nostri prodotti tipici, tutto molto bello e non c'è niente di male in questo. Pensare che questo sia il nostro ruolo nel contesto internazionale è pericoloso, cioè è sbagliato, proprio sbagliato, perché il valore aggiunto è basso, quindi non possiamo mantenere gli attuali livelli di welfare e di benessere pensando di vivere di cacciotta di pizza. sapienza o di turismo, insomma.